Domenico. Vieni. Vieni qua, sei. Hola, hola, attenzione, canale 10, Gambio. Chi è, avanti? Bobuti. Cosa? Bobuti. Ciao, Bobuti. Ciao, ciao. Eh beh, Antoni. Tanto mi lascia, sono tornato. Tornando adesso. Ero in girella, dai. Adesso mi sdraio un po', 5 minuti, mi sdraio. Sono tutta la linea in giro. No, io tutta la sera me l'ho appoggiato e traiato. Ho fatto un po' di esercizi. Col piede in alto e la testa in giù. Beh, bene che stanno facendo. Ma cosa? Pazienza. Devo lo pranzare a buco. E vabbè, lasciare il tempo di agire, no? Come sto andando con questo apparecchio? Cambio. Ogni tanto col microfono fa un po' di scarichette. Scarichette? Aspetta, forse è perché lo premo male io. Guarda. Adesso hai fatto un bel inizio. Quando, perché ha quel tasto particolare che ti fa male al dito premendolo, cazzo. C'è il tasto quadrato. Ecco, io ho messo quello a fare, ne ho comprati 4 e addirittura ne ho comprati 50 centesimi l'uno per la batteria, da fusaro, e ne ho cambiato 4. Per sicuro 3 sono conservati. Ehi, dai, fatto il lavoro. Sì, sì, com'è? Hola. Già va bene. Cava. La modulazione com'è, Torino, la radio? La radio è ultima. 5, super. Cava. Eia. Cosa ti stavo dicendo, Torino? Adesso sono col coso, col Cobra. Però c'ho un microfono originale di questo apparato che è uguale all'altro. Capito? Va bene, sia in questo apparecchio Cobra che nell'altro Cobra. Se lo voglio provare qualche giorno, ma non a giugare, ma già lo provo. E quando schiaccio un po' di scarpe che te le porti appresso, lo spariscono. Magari ci vuole un po' di spray. Penso di sì. Nel PPT che fa questo lavoro qua, quando è sporco fa questo lavoro. Ecco. Poi, che giornata. Oggi mi sono fatto carne fagioli alla Bud Spencer. Come facevano i messicani. Cappa, spezzati a quei fagioli imbrollotti. Che buono, ragazzi. Io invece i fagioli prendo bianchi di Spagna e me li faccio insalata con le cipolle e il tonno. Poi sono buono. Sì, anche quelli me li prendiamo anch'io, quelli spagnoli, quelli grandi, quei bianchi. Cappa. Con i fagioli, i cani mangiano solo la carne, i fagioli mangiano il buzzinoso. Infatti me l'ho immaginato, ho messo solo 2 fagioli che non hanno mangiato, cioè me ne mangia Dio. No, io ne mangio calamari fritti, insalata e sei uscito tutto male all'inizio, ti è mancata anche la modulazione già. Aspetta che allora vado a prendere un altro microfono. Ecco. Hola. Sa, qua. Sì. Tony, come va questo? Mamma mia, mi ha fatto un socio, guarda. Abbassa le voci, ai. Troppo forte, abbassa. Mi sa che non è come un uguale a questo, che va molto bene questo qua. Cioè, l'ho tolto ecco pure. E adesso l'ho tolto, guarda, lo metto appena, bene va così. Caspita, con la radio non ce n'è frequenza, è forte così. Cava, già va bene, eh? Adesso l'ho regolato, dai, l'ho messo il microfono suo. È un bel amplificato. Gianni, number one. Number one, sei tu che c'hai i Super Cinetic. Questo si chiama macarrone. Ehi, mi bisogna che buschi un microfono per il Galaxy, senza, poverino. Senza microfono il Galaxy. Scusa, non c'è pronto il tavolo per il mazzo che l'ho visto. Quello lo sto usando qua adesso, Torino, mi bussavo il 4. C'ho praticamente quello del Galaxy, l'ho messo qua. Vedi, lo mettivi nel Galaxy, ce l'avevi bello forte. Ma ascolta, ma è più forte del Galaxy questo. Ma non ricordo, qua sei un bel forte, un bel E segnale com'è? 7.9 su 0.30. Che regalo, va bene, va bene. Quindi questi dolori non ti passano, io credo che dobbiamo piazzare questa antenna. Capo, capo, guarda, su cui scoglio un altro, che ma cosa posso fare a stare nel tavolo, che faccio questi dolori, boh. Sei anche troppo forte, abbassa la pena, tu dici, se no non mi compro nulla. Aspetta. Così va bene. Il lusso va benissimo. Eri troppo sparato, infatti non ti avevo riconosciuto nemmeno poco fa. Oh, via. Non sei uscito tu? No, stasera per niente proprio. Comunque poco fa era a tre quarti, non ero neanche al massimo. Adesso l'ho messo a metà, fatti conto. Il Mikey King. E adesso come l'hai messo l'attacco o un po' di più? Beh, vabbè. No, sono uscito perché non avevo quello da niente, mi hanno fatto come dicevo che stamattina ho lasciato a dare il sangue, cioè dare il sangue, a fare le analisi, tutto quanto, mercoledì li tiro tutto quanto. Cazzo, ho messo 4 euro alla colonnina che ti sa quanto ci sto la gente che c'è. Ho già, sono entrato, dopo neanche 5 minuti mi hanno chiamato. In tutto 10 minuti ero già fuori, ho detto cazzo fino a mezzogiorno lì c'è la macchina pagata e me ne sono andato che era il ghizzo ancora. Te l'ho detto io, ma c'erano sempre i biglietti di un numero fuori. C'era il bigliettino fuori, però no, non faceva più. Perché dovevo scendere, sì, l'ho preso da su, ma ho messo scendere le scale a fianco e scendere giù. Non si scende più dal portone, il portone si esce solo. E da dove si passa allora? A fianco, tra il bar e il moderno, in mezzo alla scalinata. Come si dice, la prima scalinata gira a destra e entri dentro. Poi, quando sei dentro, che ti chiamano, apri la porta a fianco, scendi un piano sotto e sei di nuovo lì in laboratorio. Ecco, ma ci ho cioè, dal portone si esce e basta, boh. Ogni tanto non c'era mai una. Comunque, fa più fredda, mi sono trovato io. Se andavi là, capo, vedi come sapevi tu, guarda. E in capo, questo è il parcheggio, l'ha capito. Io stamattina riuscivo a vedere il parcheggio. Alle 7.35.40 ero già in Lomberto. Ascolta, cosa ti volevo dire? Vabbè, comunque hai trovato vicino il parcheggio. Sì, un po' di vicino a Moderno. Non bassi. Avanti. Santiago 7, sì, qua, Nico. Ciao, buonasera. Ma la radio è bassa, come mai? E chi è? Che antenna hai preso? Ma di quelle che si attaccano al portatile. E non hai fatto un grosso affare, arrivavi più forte prima. Comunque c'è Torino Kawasaki, non so se ti ascolta. Avanti, Torino. Niente, vedo lo Smith che solleva San Diego, sì, ma è tutto corretto. Sento la voce sottofondo, ma lontano, lontano, non riesco a capire cosa dice. Capo, senti Tatolino, non ti ascolta, dai. Chi è tu già? Lupo grigio. Ma se mai basta di questo lupo grigio, che è un po' di l'antenna, eh. Lupo grigio, l'antenna che devi comprare, quella la mettere sul tetto, no? Quelle lì sprechi su e basta con queste antenne, secondo me. Ascolta, l'alimentatore lo stai usando. Vabbè, dai. Torino non ti ascolta con questa, poi con l'altra, avanti tu. Mi dispiace, ma io sempre così l'ho ascoltato, pio pio proprio. Qualche volta tempo fa un po' di voce in più lo sentivo, ma adesso questo tipo corre me, che farebbe un motorino, mi dico, pacca le taglie. Mi manca solo sul tetto, perché tutto c'ha, c'ha il baracchino, c'ha l'alimentatore, mi manca solo l'antenna. Mi fa l'antenna, ma la periferia, lo intendi. Mi dici che, cos'è? Qui. Ciao, c'è Nannini, sto facendo qualcosa, mi sono in ascolto. Sono Nannini. Lui Lucrezia Borgia. C'è già Nannini. A proposito, lei mi andiamo a spingirisco. Tori, oggi, vabbè, stamattina ho preso un occhi. Come sono messo? Siamo messo a Voltaren. Però se mi siedo, mi alzo, mi fa un bel male. Ti devi fare la risalta magnifica per sapere con esattezza cosa hai. Dopo, se vedi che hai veramente un mini rendisco, ne parliamo. Via, avanti, Black. Beh, dove sei? Sempre al solito posto. Ora dico sempre la QTH tuo, famoso. A me è bassissimo, Santiago 2, sì, la radio è buona, ma il segnale è basso. Ok, avanti già. Devi mettere l'antenna sul tetto. Te l'ho detto io cosa devi fare. L'unica cosa è quella, se no non riuscirai mai a parlare, Lupovicio. Caro, caro. Andare. Vabbè, Lupovicio, guarda, se vuoi stare all'ascolto, non lo so se vuoi entrare, siamo qua, dai. Torino non ti ascolta. Adesso lo rilancio, Torino, avanti. Mi dispiace, ma Lupovicio non lo sento. Mettiti sul tetto, così meno parli in grazia di Dio con tutti quanti, ti ascoltano tutti, anche i pulci sottoterra ti ascoltano, ma così proprio nada de nada. Ok, niente, lui, io ho fatto tempo fa 50 punture, fatti il conto. Quando poi, dopo tante punture diverse, eccetera, poi alla fine non mi faceva più niente, né pastiglie né punture, nulla, zero, allora sono corso all'operazione. Quindi dovrei fare un'altra operazione, purtroppo sì, perché il canale è stretto, non riesco a riunirvi, quindi mi ha fatto un'ernia grossa e già che ci sono mi faccio le due ernie e buonanotte, almeno sto bene del tutto. Quindi tu sei anche esente se non vado errato per farti una risonanza magnifica. E poi giustamente quello lì, già ti dico tutta la frase, lì se va bene partiamo insieme, dai. Se hai quello lì, mi auguro di no, se non ce l'hai meglio comunque. Intanto mi si mette in moto, oggi la sto meglio, dai. Ma avanti ieri, mamma mia, l'ho bloccato proprio, non riuscivo a calzarmi dal letto, non riuscivo ad alzare piano piano, mi non ce la faccio, mi aiutavo con le braccia, non riuscivo, guarda, manca stare in piedi, nulla, stavo malissimo. Io ho tardato troppo, a me quando facevo la cura buona, dopo due anni, non c'avevo più niente, dopo due anni mi riveniva, sempre un dolore diverso e più forte. Io andavo gridando all'ospedale, fregati, guarda, che è una cosa bruttissima, mi auguro che tu non ce l'hai. Se hai un rendisco, fatela subito a Luca, perché è un consiglio che ti do, per molta esperienza che ne ho avuto io. Io ripeto, adesso fine mese vediamo com'è la questione. Se non mi passa niente, rifaccio l'altra risonanza e poi vado a operarmi. E al mille per mille vado, perché così non posso continuare così. Adesso appena mi libero, sono un po' impegnato in questi giorni, poi farò tutto. Lunedì sicuramente chiedo, vado al medico e glielo dico, non mi buttare su punture, sì, le punture mi hanno fatto bene. Sono andato a finire pure al pronto soccorso, mi guarda che non riuscivo manco a... Un giorno mi sono abbassato per controllare, stavo controllando un ragazzo che mi chiamava spesso, no? Intanto mi si rompeva il filo dell'acceleratore dell'AP50. Mi sono abbassato per smontare il carburatore, beh, ci credi, non riuscivo più a alzarmi. A me anche la morfina mi hanno fatto. Tu pensa che neanche la morfina mi faceva niente. Gianni sa di cosa sto parlando, perché anche lui queste cose più o meno le ha passate, quindi anche lui ha tanti problemi. E sa che sono dolori che rompono le palle, tutto qua avanti Gianni. Rompono le palle non fanno manco dormire la notte, secondo come va. Ma magari hai fatto qualche strappo, magari facendo qualche lavoro. Non è possibile che si è fiammato il nervo. Quello sì, però mi viene anche se non faccio niente già, capito? Ok, se il nervo è infiammato è normale che ti venga il dolore, anche se non fai niente, basta che stai in piedi, già stai sforzando. E magari il nervo solo è infiammato, non è niente. E comunque fate la risonanza magnetica, male non ti fa. Così sai veramente cosa c'hai. Infatti, appena mi libero la fa, ma io ho fatto anche la... Cosa ho fatto? Il CD. Aspetta, ti dico cosa c'ho, aspetta. Io sto prendendo Aertal 100 mg, che è un antinfiammatorio e un antidolorifico. Infatti me l'ha dato la luce, anzi che pigliavo Manzano. La notte sono un grillo, che sto così bene. Vabbè che siamo in zona bianca, vuol dire che usci la notte, io faccio a me, non uso il dolore. Che va di caro? Se al CD, Luca, lo niente di strano che ha fatto la risonanza. Ehi. Lupo! Attento, lupo grigio! Attenzione, lupacchiotto! Non rispondo, ma se l'ha chiuso, è memorializzato perché si è comprato l'antenna, esce più forte, poi c'è, esce più basso di prima. E che antenna si è presa? Un'antenna di quelle piedi, ce l'hai presente che si attaccano al baracchino, sarà un metro qualcosa. Ma lì l'antenna ancora che gli puoi mettere è quella. Con la sul tetto, se no non riuscirà mai a uscire come si deve. Cazzola abita lui. Cappuccino. Ma se lo mette l'antenna sul tetto, è inutile spendere soldi e antenne che non valgono niente. Quello va bene a parlare da qui a Limbo Bassa, poi. Sì, ma infatti, sono soldi buttati. L'unica antenna che poteva andare bene era la Mini Turbo, che andava bene. Quella lì arriva qualche roba. Ah, l'ho fatto un anno fa. Allora, si presenta presso il nostro ambulatorio fisiatrico per un dorso lombalgia destra, sinistra, episodica e progressiva. I trattamenti farmacologici assunti peraltro in modo discontinuo danno un beneficio transitorio. Vabbè, comunque, allora, l'esame obiettivo si rileva è un ipotono trofismo muscolare, poi con contrattura, con dolore al degito, pressione della massa muscolare paravertebrali dei processi, vabbè, comunque poi c'è scritto C3, L2, L5, lombari. L3, L5 e L2 sono dove sono le frequenze, sono il disco, capito? Però non dice di ernea che è uscita fuori, eccetera. Poi dice qua, esame radiologico della colonna lombosacrale. Non si riscontra alterazioni ossee strutturali. Lo spazio intersomatico tra L5-S1 ridotta in ampiezza da sofferenza discoverticologica. Comunque la diagnosi è lombalgia posturale. Ma ci avrai l'osso cartilagine consumato? Ma cosa mi so? C'ho un dolore, però mi sono piegato per parlare con voi, sono seduto. Adesso come devo alzare però piano. Ma io sono seduto e sto bene, coricato sto bene, quando mi alzo sto bene e dopo 5-6 minuti comincia a tirarmi i nervi da sotto i gluteri e va a finire fino sotto la coscia. E mi fate vedere le stelle. Allora mi siedo e mi passa. E cosa vuoi ti dica? Non lo so, è un casino. Va. A me mettono cioè i muscoli infiammati, l'altro cortisone, sto prendendo del cavo di antifiammatori, però a ritardo. Cosa vuol dire? La notte delle mie fiammatie mi basso di prima clinica, e sto bene. Di giorno no. Avanti già. È un casino, Quando c'è dolore, guarda, mi gioco qualche cosa io, in questi dolori. Non dormivo la notte. No, io la notte sto bene, dormo. Pensa che io non ho letto, ma non riesco a girarmi, Tony. Devo stare in una posizione, so, piano piano, però mi fa un bel male. Guarda, sto soffrendo, Ascolta, quel CD ce l'hai già, puoi sempre scendere giù dal ghero, fatti visitare, e lui ti dice cos'hai e sei da operare. No, allora, mia madre devo fare fisioterapia, lì al Conti, ma non me l'ho mai chiamato, devo fare 10 sedute. Io sono andato a prendere il passo di cervello a carica e non mi hanno mai chiamato, e la madre non ammala, se abbia luce. Ma noi invece sono venuti a casa a fare fisioterapia, ma l'avevo già fatta io, se no faccio a papà con l'H di legno. Dovevamo venire subito, poi con coronavirus sono venuto. A me sono passati 2 anni, quindi se abbia luce non mi interessa niente. Niente, io adesso sono nato il 23, adesso il 23 marzo devo andare di nuovo giù al Nero dal dottor Tresoldi, quello che mi ha operato, e vediamo cosa mi dice e come mi sento io. Se mi sento ancora male mi fa l'impegnativa per andare a ricoverarmi di nuovo e ci vado ben volentieri, non era funzionata, io voglio stare bene. Cappa, via. Luca, come ascolti questa radio? Già, è troppo alta, bassa, è troppo alta. Guarda così. Prova. 1, 2, 3, 4. Ehi, fa un passaggio più lungo, già parla però, parla. Un pochettino come va adesso, vediamo un po'. basso, va bene, però troppo alta. Come se io, guarda, faccio così. Gianni, come mi senti adesso? 1, 2, 3, prova. Bene. E non è alta? No. Poi c'è la manetta. No, va bene. Io ti ascolto bene. Sembra che sia un microfono normale più o meno adesso già. Adesso sembra normale. Ecco, se lo dici che è normale, basata. Perché lui è vicino a far quello. E io sono più distante, però anche a me mi dice basso, infatti anche tu me l'hai detto, ho passato. E io è vero, infatti. Pagava. Questa che la devo ammattare. Comunque io sto cercando un compagno per andare a operarvi. Stai cercando un compagno? Perché vado a operarmi e viene anche lui, si opera insieme. Mi Luca se si deve operare. Ma io vado il 23 a fare la visita, se vuole venire anche lui. A me già mi è bastata quella che ho fatto di operazione, già le vita era già male. A voglia. No, io ho un bel tricchetto piccolino là, adesso ho fatto, no, 5-6 centimetri di più. Io. Esiste? Non lo so. Io 23 devo andare giù. Chiama di Gava. Ma io non lo so se sono da operare già, adesso devo vedere un po', un casino, adesso posso stare così qua. Molte volte non riesco a rimanere in piedi. Allora, aspetta che... A me piace parlare chiaro sulle cose, cioè che tu non me l'hai detto, allora io 23 devo andare. Dico già una cosa, che se tu vuoi farti fare la vista, avessi di operare o meno, ti prende 150 euro, te lo sto dando 100. Io la seconda vista ho pagato 100, la prima 150. Mi ha prenotato, ho trovato per l'ospedale. All'ospedale ho quella solo per andare in viaggio, e mangiare e dormire, perché sono partito un paio di giorni prima. Se no, se riesci ad arrivare il giorno stesso, però con uno o due giorni, per forza, devi cercare un B&B, capito? Quindi, là non paghi nulla, ti fanno tutte le visite da A alla Z. Non solo la risonanza che dura 10 minuti, no, come qua 40 minuti, capito? Sono macchinari molto alti d'avanguardia. Poi mi hanno fatto la lastra, analisi del sangue, tutto da A alla Z. Non ho pagato niente. Vabbè, io non pago niente lo stesso, vabbè, queste visite qua che hai tutto, ma le pago. Cazzo, ma ci sono 50 euro, però. Ascolta, questo è un dottore che è un chirurgo che opera lui stesso. Quindi, non so, ma voi la faccio 50, mi sono ricoverato, forse altro il giorno 23 gennaio, ho pagato 100 euro, gliel'ho chiesto prima cosa devo pagare il suo onorario, ho detto 100 euro. Adesso senz'altro che ci rivado, se mi dice perché devo ricoverarmi, sono altro 150. E non mi fa ricevuta, te lo sto dicendo. Ma anche a Sassari mi la fanno, non è che io conoscevo un amico che l'ha fatta a Sassari e l'hanno fatta bene. A mio cugino l'ha rovinato, è andato a Cagliari peggio, dove sta Monza, e non più stato. E ho visto anche a te, non ti hanno operato, eppure non l'hanno risolto molto e fuori. A Manuele l'hanno messo a posto, ma a te, secondo me, è quello che capita, e non è che... Come riviene? No, a me me l'ha già detto, c'è un'ernia grossa che comprime sull'erno sciatico e io te la faccio fuori. Solo che dopo ho fatto quell'operazione, automaticamente nervi sono più... Puccia, se sono più sciolti nervi, e vado a toccare uno con l'altro perché ci sono le due linee piccoline, io ho il canale stretto e il casino è lì. Adesso lui mi deve allargare il canale, mettere le placche con le picche. E magari toccano anche quelle. Fatele togliere direttamente, una volta che ti apri dedicava tutto quanto e via. Cosa se lo può fare, chiediglielo, se lo può fare di toglierti, così a me non è più problema. Beh certo, una volta che va lì allarga il canale, sì, me l'ha già detto. Malformazione dalla nascita, mi ha detto, c'è il canale stretto giù, ecco perché. E lì quel canale passano i nervi, ovviamente, capito. E quelle due erniette le tolte senz'altro. Ma perché prima non ti dava problemi se era dalla nascita e adesso ti dà problemi? È quello che non capisco. Perché con l'andare del tempo si invecchia e quindi l'osso comincia a consumarsi piano piano, capito? E sono le fatture che ho letto anche su internet, purtroppo dopo i 60 anni, e in effetti, quindi ho 67. Vabbè, se l'ho fatto, vado, dove ne sono di là, avanti. Io ho fatto uno stupido anni addietro, quando facevo lavori pesanti, tipo, ma non vale, qualche panificio, mi sa che da 50 kg prendono un acqua. Sono gli sforzi che facciamo durante la vita nel campo lavorativo. Io stesso faccio 23 anni e fino agli ultimi 5 anni non ho più fatto degli sforzi perché ho preso l'ospedale, non potevo più fare alzare più di 12 kg. Perché i motori dell'antincendio, non i piloti che non pesa nulla, ma l'ASPI comincia a pesare 80-120 kg, capito? E prendere in due, salire le scale, sono sforzi che fai spesso, per anni. Lo so, vabbè, pazienza. Comunque, vedi tu Luca, non so, vuoi versarsi o versarsi, ripeto quello che vuoi, io ripeto. Questo è un dottore che è un chirurgo, che opera lui, l'ho conosciuto tramite persone che mi hanno indirizzato a lui, che hanno operato e le persone stanno bene veramente. Manuele, grazie a Dio, io ho un problema tutto diverso, il canale più stretto, capito? Manuele, c'è l'osso cartilagino consumato a parte lì del disco, ecco perché mi ha messo le placche. E adesso vediamo, là, a saparmi libero, vedo un po' cosa dice il medico. Cappa, fatti dare consiglio a voi. Avanti, già. Bravo, ragazzi, ancora non ci vuoi più. Dicevi già? No, sto dicendo a Luca, ancora non ci vuoi più. Lo farà anche quella, allora. No, in Grazia no, li farò in Sardegna. In Sardegna lo fai? Sì. Ma tanto mi stavo proponendo questa mobile, mattina, fissi li metto. Vabbè, a posto. Pago, poi lo posso fare cosa fatta a me. Mobile, la metti allo scorrevole. La basculante, mattina, che spaccarizza. Meglio che usi qualche sopo. Comunque una 1.000 euro spinta. Stavo giù in una dentiera, mattina. Poi magari si acciuppetti di nisci. Cazzo, lui, fammi i denti, mica ci piace, ma come viene uscita, eh? Vabbè. Se sono fatte bene, anche quelle già vanno bene. Si mette la colla sotto, il pulimento. Ah, faccia. Solo che da voi sai con chi si abbassa tutta attaccata, vabbè. Scusa, tu a chi non l'hai fatto? Cosa? Tu perché non te l'hai messa? Ah, ma poi quella lì te la fanno anche gratis, per la mutua vai e te lo fanno dall'ospedale gratis. È buona, per carità. Io ce l'ho e non mi posso lamentare. E ho pagato 1.000 euro da un meccanico dentista, che è un amico mio, e me l'ha fatta lui stesso. E vabbè, tu hai anche una certa età, cioè sei molto più grande di me. E sono ancora giovane, non avevi altra cosa in bocca, per carità, no. Poi già la pensavo che ti arrivi bugato, no, lascia perdere. No, io masco tutto, straccio tutto, mela, panino, cioè è fatta bene la mia, capito? Capito, per mangiare bene quanto vuoi, ma il pensiero che te ne arrivi bugà. E per la palla sì, ti sei pensato, non ho capito, mica te la muovo così e via, capito? No, io grazie a Dio sono bene. Io l'ho fatto perché giustamente lavoro nel pubblico e a me parlare con la bocca senza denti non mi piace. Ma te l'hanno fatta nel mare o hanno fatto l'operazione? Non ho capito. Quando hai fatto l'intervento, te l'hanno fatta levare, perché di solito te le fanno levare queste cose. Cappa! Vedi. E tu? Per carità, ogni vagogna. No, a me non mi interessa, poi ognuno fa quello che vuole. Preferisco metterli difficili direttamente. Vedi vagogni. Pensa che la prima volta che mi ha prima operato Manuele, a me domani. Si tocca le braghe e gli dico, cosa, non ho capito, si tocca le mutande. Io non so così, Manuele, allora ti voglio vedere nudo? Grazie all'infermiera, così mi dicoraggi. Perché poi devo mettere il catetere, giustamente, a te immagini. E invece, io sono il piccio, ti bisogna mezz'ora in mano, ti muovo il catetere. Allora, da poi vai, come ti... Quei due soci della Croce Blu, abbiamo fatto un notturno, questi due avevano più di una dentiera, hanno messo il bicchiere, ci hanno messo la dentiera, la mattina esce un'urgenza, che lì va per metterci la dentiera, ci ha messo la dentiera dell'altro, non rientrava, dice, ma chi si è andato in dentiera, come ti va non entra? Se mi dà una mea, poi forza! Ma come non si avvisoleva? Hanno cambiato la dentiera. No, io c'ho anche il pastigliare di disinfetto, ho capito. Ogni due giorni la disinfettata. E ci sono le pastiglie per disinfettarla, quelle che sono effervescenti e cose la disinfetta. Cappa. Bene, mira. Nah. Parliamo di cosa buona da mangiare invece. Che molta cosa non posso mangiare. Faccio una gara, mangiamo un bel panino, una Nutella che non posso mangiare. Non le mangiare, queste cose ti fanno male. Già, mangio la gana, non so purtroppo. Adesso metti le analisi e vi dico che so. Cosa? Guardati le analisi adesso. Guardati le mani. Le analisi. Ah, quelle devo ritirare dopo domani. Domani le ritiro. Dopo domani, mercoledì. Ti guardi quello, se si è andato bene magari uno strappo la pecora lo puoi fare, ma se non si è andato bene devi stare a digiuno. Pazienza. Ma è inutile con questo cacchio di cortisone che prendo la mattina mi sale la glicemia, ma non so detto l'ospedale, mi ha detto dottore, la mia dottoressa, tutti mi hanno detto. Ehi vabbè, ma tu non ti devi cullare sugli alluri, perché se tu mangi anche roba che ti fa male, oltre a avere il tanto che ti fa salire il cortisone, te la fa salire ancora di più, è normale. Già, io sto mangiando quello che mangiavo prima, né più né meno. Un po' di carne la mangio, un po' di fagioli la mangio, un po' di pasta la mangio, grazie a Dio avevo sempre 110, 115, 130, non di più, capito? Con cortisone, mazza di sceglie, la mazza di erbaria, boh. Ma quanto devi fare ancora questa cura di cortisone? Allora, in tutta una settimana, uno la mattina e la sera prendo l'altra per l'antidolorifico. Dopo una settimana smetto, per una settimana non prendo niente. Poi ricomincio di nuovo per un'altra settimana, due cicli devo fare, di una settimana completa, capito? Devi sospenderle, ho capito. Scappa, poi vediamo. Per me non prende nulla, sto facendo quello con la panca che mi ha ordinato, il dottore che mi ha operato. Se vediamo che non ti passa, allora bisogna di nuovo salire su. Bene, veda. Luca. Via. No, un attimino già, due secondi che mi sposto, che no, ho un telefono che... Allora, cosa, la gente ancora non ha capito niente, se il telefono cade nell'acqua, cosa stai lì a dargli di nuovo tensione? Non vanno d'accordo, la tensione con l'acqua non va d'accordo. E praticamente la sera l'avevo bruciata. L'acqua è conduttore di corrente. L'unica cosa è togliere subito la batteria, ma adesso nei telefoni di adesso non si può più togliere la batteria, è un casino. Ma infatti, ma qui non bisogna, no, perché prende acqua, no, cioè, ma ho detto, ma possibile, lo apro, lo asciugo, faccio un trattamento con quello che ho io, poi lo metto nel riso, che sa subito l'umidità, più di uno li ho salvato, Mettiamo io, gli ha accolto nel gabinetto, li ho salvato io. Nel gabinetto. Si mette in lavatrice, c'è uno strumento che si chiama lavatrice, altro in riserva ce l'ha. Cosa gli è entrato uno nel gabinetto del telefono? No, nel gabinetto. Questa commessa stava lavando in terra, ci aveva nella tasca del camice il telefono, il cellulare. Come si è inchinata per bagnare lo straccio, le è caduto dentro il secchio. Se si buca pure la vinita, la ragazza, un paio di giorni prima che era il compleanno. L'ho smontato, quelli lì ancora uscivano le batterie, era un nucchia, l'ho smontato, pulito bene, ho preso un pezzo di carta di Scottes, l'ho pulito bene e coso, poi gli ho detto quando vai a casa tua prendi l'asciugacapelli, no, io quando arrivo a casa si sarà rotta, è andata da questa signora che conosceva, si è fatto prestare l'asciugacapelli e l'ha asciugato e l'ho salvato. Sì, ma vuol dire che nel taschino come si è chinata quella vicino al petto, in alto? Non ne ho capito nulla, Antonio, c'è troppo impastato. Perfetto. Ho detto, il taschino, niente di strano, che se l'aveva sul seno, in alto, come si è chinata, le scivolata il trasfecchio. Ce l'aveva nella tasca di sopra, sì. Ce l'aveva nel taschino di sopra del camice. Quando ancora usavamo i camici, adesso usiamo le magliette, non ci so, cioè usano, non uso più io. Ho buttato via tutto, le divise le ho buttate tutte via. Ho messo ormai che normale, con meno popolazione. Perfetta, va meglio così che con l'altro. Troppo forte e si impasta. Lo so. E number one, che ci vuoi fare? In lontananza quello va bene, ma da vicino si impasta troppo la modulazione, non si riesce a capire cosa dici. In effetti ero 30 centimetri vicino, ho ceduto vicino. O forse parli troppo vicino tu, devi usare una certa distanza. E adesso uso mai che non male, da. Comunque mi piace, quel coso, quel quadro, lo cavo che hai comprato già, che non voluto, cavolo, poi va bene, ho sicuro. A me non mi piace, mi ha detto, me lo metto così, che a domenico, come si dirà come ti mi piace. Trappa, entro che hai pagato. 12 euro mi pare, una cosa da 11 o 12. Allora, un metro e mezzo da te. Oh, non l'ho misurato. Tu considera che poi è a molla, quindi a spirale, quindi si allunga anche. Venga. Bello, bello, molto comodo perché se sei meno sdraiato, parli tranquillamente, non stai tirando le cavolette. Infatti. E adesso lo apro e comincio un attimo di tempo, li sfrutto il coso, l'aria, e poi lo spreco al contatto nel PTT, perché il circolante c'è andato a polvere. Penso, purtroppo, anche il mio, no. Non l'ho preso il bamboletta, che ancora sta davanti, non mi sono dimenticato il bamboletta, va, parliamo, quello dei contatti. E vabbè, ci rivado con calma domani. Cava gala. Dove non c'è nessuno oggi? Ah, boh. Io sono entrato, c'è Alessio, ha fatto chiamata e risposta. Nessuno, boh. Io l'avevo acceso 10 minuti dopo la trasmissione, mi sono messo a letto, ho preso il pescato, ho travato. Cavalcava. Vedi? Dai, faccio uscire un pochettino il cortile, poverino, già. Ma sono dentro casa, perché non li facevi fuori quando ci sei tu? Gianni, la porta è aperta per il cortile, non esci. Quando sono gli altri si mette dentro la porta del camera da letto, si mettono. Io dico, ma andate fuori, tu te la fa, devo, ci avrà pure fatta bene. Dove si stanno meglio dentro casa? Quando io vado in cucina lo già escono, escono dentro, faccio un casino già. Si corrono intorno all'altro, tutto nel giardino, faccio un casino già. Perché sono esagitati. Secondo me c'è un Jack Russell in mezzo a quei carini. Quella razza lì, c'è qualche Jack Russell. Che sarebbe quello marocino, rossiccio da. Ci sarà anche magari Massotto, però c'è anche il Jack Russell, perché sono esagitati come Jack Russell. Quello che c'è con un amico mio ti salta sino alla faccia, ti salta quello che vede. Guardi lì che mai un canguro. Ma sì, ma se dove mi ci ha trovato questo qua? Io non posso vedere perché sennò mi leccavo tutto. Sono affettuosi poi. Mi stavano violentando, l'altro giorno uno mi leccava una parte o dall'altra, non riuscivo a gestirli. Poi quella piccolina, quella marocina, è un beaggio, raga, un casino, Te l'ho detto, il Jack Russell è così, esagitato, rimane esagitato. Io, quando vedi la mia carriera, tipo si chiamano un culo, raga. Si chiama poco poco per accarezzare con il posto a faccia. Ma mi avrei quel niente poco salvo, ma cosa le dai? Nulla! Ah, non le molle sotto i piedi! Così è. Anda bene meta. Vabbè, dai già, io vengo con l'apparato, vengo con l'apparato, che faccio più qui, animalisti, perché non vedo che possono avere. Se poi sono fuori, ma qualche volta mi rispondo anche dentro, con la piscina, adesso che mi dà fastidio. Faccio fuori c'è sempre il piccolo con la barecchina, prodotto. Però mi rompe le palline, capito? Devo imparare a stare fuori. Adesso lo faccio uscire e chiudo la porta di dentro. E così rimane in dura. Ma sono freddo, E che adesso non sono abituato a stare fuori. Poi c'è una cuccia con i pentata che ha. E se matura questa cuccia, per caso di tutto cane dentro. Se la metti da piccola non entrare dentro casa, che stanno fuori, è un conto. Ma poi se la metti a entrare, sì, preferiscono la casa, c'è più calduccio, meno, sono macchina. Ma non ti rilascio tutto rotto, perché ho stato acceso di reazione. Cappagato. Andare. Ma buttoni, dai, se devi andare, vai, non c'è problema. Io così mi apro col microfono e me lo controllo. Cappa, ma poi cucina, se me è più tardi già. Dopo c'è la sentita, perché se lo ci sentiamo. Ia. Ok, ciao già, ciao ciao. No, oggi c'è la frangella, c'è la finale, non ci sono. No, a me non mi ho mai guardato, non me ne frega, non ne guardo niente. Vabbè, vuol dire che guarderò un po' di film se ci sono. O a focus se su qualche programma bello, mi piacciono certe cose che l'ho fatto vedere tempo fa. Stavo cercando un terreno dei nazisti, pieno di oro, sotto una montagna, ma non acciappavano, casino. Era bello tutte le gallerie che c'erano da aspettare, ero preso come cane. Se lo ridanno il continuo non sarei vero. Perché ti attirano queste cose, anche io guardavo questi programmi, anche quelli di pesca, guardavo la pesca al tonno, al pesce spada. Guarda, una volta ho visto i buchi neri, lo spazio. Mi ha attratto così tanto che io ero dentro il film, troppo bello, guarda. E si è fatto anche tardi, non mi frega niente, quindi adesso scusa dello spazio poi. Perché non ce l'ha anche tu su Marte, allora, se ti piacciono queste cose? No, magari sì. Marte è perché ci vuole andare, si metterà marziano, a me no, mi sotterrebbe con la sua terra. Ok dai, ci sentiamo, ciao Gian, alla prossima. Sì, ciao Tony, ci sentiamo, buona serata. Grazie anche a te, ciao. È vero. Sì, è vero. Oh yes, mamma mia, le ciabatte pure mi fanno male. Che cosa? Allora, ma di schiena, può vedere, mi può vedere anche allora le ciabatte. Ci avrei per artrite, roba del genere. Come ce l'ho io, capito, con tutto il dolore. Quando mi alzo la mattina sembro un uncino, poi come mi muovo mi passa tutto. Però quando mi alzo sono tutto a dolore, i reni, alle gambe, ai piedi, alle mani, da tutti i passi al braccio. Casino, per artrite, adesso mi apro col microfono che dice che sta facendo. Quando parlo rasco. Ho capito, già la so un po', cazzo, un bel forte. Abbassala. Guarda, così me ne va. Benissimo, cazzo, un bel forte già. Boh, cosa cazzo sai di chiamare Maria di chiamare la moneta, boh. Cosa ti stavo dicendo? Che devo guardare un microfono, l'altra. Perché praticamente dice che quando schiaccia la porta ti fa gratta, vedi? Ah, però provaci a uscire, ma buttali, guarda, appena di cosa, di dove c'è il PDT, di 40, guarda che ti passa la macchina di bassa. C'è il numero della macchina? No, c'è il CV di 40 già. Ah, sì, ce l'ho. Ah, ma c'ho anche quello per contatto. Beh, il cagnaccio, come sta? Bene, aspetta un attimo già. Sto rispondendo alla moglie di un amico che mi hanno dato un telefono dalla figlia che è caduto in acqua, gli hanno dato tensione, cioè che l'hanno provato a caricare e l'hanno bruciato, va. Ma ti guarda il Grande Fratello stasera già. Cosa? Ho detto ti devi guardare il Grande Fratello stasera. Sì, perché me lo stavo seguendo, dai. Grande Fratello, voglio vedere chi vince. Allora sai cosa ha fatto guarda il televisore, non è che... Quei programmi un po' così, ma già ti impogano a voi. Stavo spiegando che la prossima volta di non dare attenzione al telefono quando prendono acqua. Ma non riesci a aggiustare? No, se c'è un po' d'acqua, è andato tensione, secondo te? Oh, lui, aspetta che attacco l'altro microfono, vedo non mi ascolti, che lo attacco al Galaxy, che faccio metto l'antenna del Galaxy. Luca! Ehi, già sono qua, me la cari. Mercoledì mi operano. Porra! E allora? Dovevo fare l'ernia, no? Mercoledì sera mi ricoverano, sono il primo, il giorno 4 mi operano e la sera me ne vado, tengo un giorno solo. C'ho un mal di schiena allucinante, mamma mia, cazzo, come morendo, Sì, Luca, anche io in questo periodo ero sempre a mal di schiena, non so perché, però pure a me mi è giunto questo mal di schiena, non mi vuole mai abbassare, cosa vuoi che ti dico? Io più che tachipirina non posso bigliare, però da biglio la gabbiaspirina e non mi fa effetto nessun antidolorifico, capito? Vabbè dai, rimango in ascolto che sto cenando, era per salutare, va, ciao. Luca! Ehi, a Natale, ciao. Ehi, già. Come va questo microfono con il Galaxy? È un po' nasino, ma va bene comunque, va bene. Sembra che si è raffreddato. Prova, guarda, adesso, vabbè, sono con il cazzo, aspetta un attimo, perché sono con il cazzo. Così, vieni. Te, sei sparito di radio, cosa hai detto? Sono sparito di radio. Guarda, 1, 2, 3. Già va bene, già è accettabile. Perché dell'altro dice che facciamo. Scusa, ci avrai ripetiti pieno di polvere, dove c'è la ferrite lì. Tanto scusa. raccolta di un po' di CRC, poco a poco, no, non no, la bomboletta, poco, proprio una, proprio poco, meno possibile. Stai un po' così, ti vedrai che poi si riprende. Già rosso, l'altra volta avevo messo lo spray per contatti, non gli aveva fatto bene, invece adesso con 40 gli aveva fatto bene. Un di 40 è micidiale, è un ottimo prodotto, ma ottimo veramente, io mi trovo bene, ma lo uso su tante cose, lo metto anche nell'arena di olio, è buono. Ah, vero? E allora lo metto, faccio la pasta ai frutti di mare, lo metto anche lì. Ma un pizzi comincia, se fa male. Cappa. Adesso ho cambiato, ho messo quello del Galaxy nel Cobra e quello del Cobra nel Galaxy, ho invertito i microfoni, intanto hanno lo stesso attacco. E vada bene. E 110, se vedi il filo che le ho messo, da su, ci ho comprato un filo, d'accordo, roba sana 2 metri, da Fusaro, di quello spiralato. E ho messo quello, era facile, là. Mi ha saldato i piedini. Ah no, per la... quel microfono, quello là? Sì, ah. Ah, quello che stai usando? Cava cava. Hai visto, se ti impegni già ci riesci pure tu a fare le cose. Bisogna avere un attimino di pazienza e si fa, no? Cava cava. A quanti fili è? 4, a 5? A 5 fili. Poi c'è il tuo, quello originale che sai che è a 7. No, era a 5 lo stesso. No, già, assolutamente no. A 5 era, a 5, uno va saltato. Vabbè, comunque ci sei riuscito, dai, hai fatto un ottimo lavoro. E io l'ho fatto con un'altra persona, non l'ho fatto io. Ehi, non c'è problema. Ci hai detto una volta, se avessi avuto le cose l'avrei fatto io, il cavo a 5. Comunque sì, allora sono andato con 5 fili, poi se eri lì nel connettore, lì all'interno, dove c'era il circuitino, diciamo, era più fili, però vabbè, io mi ricordo c'erano più fili, vabbè, comunque, già va bene lo stesso. Hanno attaccato lo spinotto e saltato i piedini. Ah, ha fatto bene. E già andava, là. Già andava, io ho sempre le connessioni di quel microfono lì. Sì, ma sono le stesse connessioni di quello che tu, del 2009. Come si chiama il microfono? Non mi ricordo il nome. Astatic. Ah, è Astatic. No, vabbè, le connessioni avrà preso quelle che ho messo io, sicuramente. Signora, esci tu in capo. No, ma ha cambiato tutti e due, sia il filo di giù che quello di sopra. Ha dovuto saldare sia lo spinotto che la parte di sopra. Sì, ma se avrà preso le connessioni come le avevo messe io. No, l'ha misurato col test. Allora vabbè, quindi così. Quindi voi ci avviate comunque. Cara gara. Sono lì col test, rompermi le palle, vado a colpo sicuro. Cazzo, non vuoi fare una raccolta che si è preso il microfono? Che microfono? Sta statico, con questo filo duro, lungo fare una raccolta. Ah, vabbè, adesso te che funzioni. Tu che le stanchezze, le ciò, mamma mia, Ma sempre in campagna si lavora. Sempre da casa. E a che punto siete, al tetto? No, finita, dobbiamo imbiancare, dobbiamo fare la facciata. Ma scusa, era già costruita, l'avete ristrutturata oppure da zero? È ristrutturata. Ah, ecco, se no questo è la batteria di Draghi. Dimmelo se fa difetto il microfono quando lo premo. No, non è fa difetto. Tutto lì non mai tocca faccia cr quando viene la schiava. Probabilmente non lo premevo bene io. No, per il momento è a posto. Sì, infatti anch'io te lo volevo dire, poco fa l'ha fatto. Ma col gas? Ma stai parlando già, uscivi a tratti. E allora lo sta facendo? No, sono a posto. Sta pagando, vabbè. Sicuramente quello lì, dai, è da mettere un po' di spray per PTT. Sta pagando. Hai capito? È lunghissimo. Io pensavo che fosse un filo normale, sono andato a aprirlo, sole, tieni su, mi sarà tutto attorcigliato, per quello non si vedeva. Sembrava normale. E Antonio Avviso ha detto che feo. E invece adesso mi sto accorgendo che mi va bene, perché quando sono coricato me lo posso portare a tutte le panche. Sì. È un'anaconda. E allora devo regolare un po' lo smitter, perché è un po' avaro, un bel po' avaro. Ho trovato un video già. Quella usa delta, microfono, detto come. Ma si intempera. Uia. Io ce l'ho fatta grossa, mi hanno fatto. Vabbè, una cosa di karaoke. E per sbaglio l'ho mandato a un'amica, questa qua si è incazzata. Infatti già sto attento, si sa mai che. E non c'è la polizia postale se continua a mandarmi queste cose, ma sicuramente qualcuno che mi ha preso il coso, il mio profilo e sta facendo queste cose. Ma su Messenger? WhatsApp. E come fanno a rubarti il profilo di WhatsApp, scusa? Vabbè, ho trovato una scusa. Ah. Capito? Ho fatto uno sbaglio, non è che glielo ho mandato apposta. Infatti, ma come ti vanno a dare queste cose li cancello, non le manda nessuno. Oh! Infatti. Non fanno. Gappa gappa. Tu te l'avevi regolato lo splitter nel 2009? No. Non lo sai regolare? Sì. È una gana. Non è giugana già da bimba baracchini. Perché poi ti dice animali. Quando sarà, lo regolerò, già lo so come si fa. Io mi devo cambiare la lampadina, mettermela blu, l'amore blu, e girarmi appena appena lo sbitto, ma non del 2009. Io la 2009 l'ho messa blu. Davvero, ma sotto l'hai aperto per metterla? Tutto l'ho aperto già, ma no, quando al frontalino l'ho staccato, dentro gliel'ho messa. Di cazzarola, un travaglio, eh. No, che travaglio. Aspetta, se non la foto. E che travaglio, scusa? Ma hai visto il nuovo Galaxy che stanno progettando? Galaxy quale? Dix. Galaxy Dix si chiama. C'è anche l'analizzatore spesso, tutto qua. No. Bello, bello. Hai visto? No. Aspetta che te lo vanno, sei dove? Tanto io ci vedo di spendere soldi. Questo 2009 finché campa, già dovrebbe campare, basta usarmi bene le cose. Sono tocco nudo e i vatti rimangono quelli. Che mi sente, che non mi sente sarà bene il culo. Bellino. Che cosa? 2009 con la luce. Sì. C'è carino, sì. Sì, era prima la mia, era su giallino, là. E bella sì. Adesso mi cerco la modifica, c'è la modifica, volevo fare anche il cambio canali blu. Questo è ancora. Beh, vai e guardalo. Grazie, detto. Che bello. Questo è un analizzatore di spettro. E quello che c'è sopra lo getto smontato. Quelli che la stanno costruendo è una ditta. È una ditta di artigiani, lo stanno facendo loro, non è una fabbrica che lo fa, ma siccome loro sanno che piace il Saturn, loro l'hanno praticamente, hanno fatto questo prototipo, capito? Lo metteranno in vendita fra poco, se c'ha tutto, analizzatore di spettro, si può attaccare al computer, è un bel roba. Sarà tu gusta. Quelle di sopra sono tutte le parti smontate e sono due o tre che lo stanno costruendo, ognuno ha la sua parte da fare e poi la assemblano, capito? Ehi, ma cosa devi fare già tu? Dai, ragazzi, mi sposto da qua, che devo mangiare a Dea e ce l'ho anche io e dopo mi sdraio, sono bugiato, ho voglia di sdraiarmi, ma ce l'ho anche la TV, tanto sicuramente crollerò un bel presto, mi sono guidato anche che ci dato. Va bene, dai, ci sentiamo lui. Sta uscendo bene il microfono, non lo tocco nemmeno. Sta uscendo benissimo già, non bene, benissimo. Dai, ci sei dopo già, io adesso già in baracchina già acceso, tanto entrerà anche Antonio. Sì, ciao ciao. Ciao ciao. Ciao Lumi, sono ben detto una taccaggia. Adesso scendo a mangiare, ma ci sentiamo dopo, ok? Certo, se non vedo così, andava, da dopo. Ok. Attenzione 10, attenzione 10, c'è qualcuno, K! Riesci a vedere? Esci un mietro, una cannonata, c'è antenna. 1-1 di stazionaria. Ola! Ola! Chi è, avanti? Chi sei? Ah, l'ora del canale d'Indice. E che c'è? C'è un po' basso il segnale. Cos'è che hai detto? Tu sei con 2 watt, mi hai detto. E beh, cosa entra? E vabbè, ma già ti sento lo stesso. Scappa. Allora c'è la portatorre, se tu. Ehi, attaggio compreso che sei un genio, via. L'attaggio compreso. Capami. Quindi sto preparando andare a farmi la doccia. Ciò che appena addorrato da travaglio. Cappa. Ah, sei in barra mobile? Cappa, cappa. Dimmi è che cosa di più forte, gà. Capo, ma stai uscendo a 4 watt. Capo, infatti si mette l'URM un poco. Devo salire là. Devo salire un pochettino questa antenna, la devo salire e poi vediamo se pompa ancora di più. Se la salgo poi già non dovrei avere problemi. Il problema è che c'ho meno di 2 metri di salo, capito? Non è proprio corso piccolo, sono contento proprio, se è stato corso piccolo e la mia situazione era giambata, io dico così, ma sono dentro proprio. Cosa oggi? Sono dentro il vicolo, capito?